gliel'avevo detto che il tè di quel negozio fa schifo, ma tu l'hai bevuto lo stesso. Così tu adesso hai vomitato sul tappeto persiano che, indebitando di tanto, tu hai comperato in quel negozio di antiquariato. Ora col tappeto sporcato che va solo buttato, arrabbiato te la prendi col gatto che ti graffia feroce sulla guancia sinistra, ti fa male ancor più dal dentista, ti siedi spossato con la guancia graffiata, forse era meglio una bella aranciata.